Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e undici minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Quello che avete appena sentito sono alcuni degli audio degli scontri che si sono purtroppo registrati oggi a Roma, a Milano, a Torino, a Pisa e in mezza Europa. Infatti l'iniziativa era della Confederazione Europea dei Sindacati, protesta per il lavoro e la solidarietà, era la protesta contro l'austerity. Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e altri 17 paesi, 100 le città italiane coinvolte, e purtroppo le manifestazioni anche degenerate in scontri a Roma, sassi e bombe carta dagli studenti contro le forze dell'ordine, cariche lacrimogeni, a Milano 5 agenti feriti. Lo dico perché oggi terremo assieme due temi che apparentemente sono molto distinti. Da un lato le tensioni, che speriamo restino limitate, però devo registrare che ieri quello che è successo nell'Iglesiente e nel Sulcis non è stata una vicenda bella, non è stato bello vedere due ministri prendere un elicottero per riuscire a raggiungere l'aeroporto, ma è anche comprensibile che in una delle aree più depresse del paese la rabbia sia tanta, perché ormai il governo arriva, non è solo colpa di questo governo, ci mancherebbe, ma con i buoi che sono usciti dalla stalla, l'Alcoa ha chiuso e il carbone, e non si capisce che futuro possa avere il carbone in Sardegna. Ma in generale oggi la protesta è una protesta che ha visto assieme operai e studenti. Allora, se a questa notizia si unisce il fatto che un'agenzia di rating come Fitch, quelle che danno i voti ai paesi, ha deciso di limitare le sue attività in Italia perché è stata rinviata a giudizio dalla procura di Trani, cercheremo di tenere assieme i due temi. Cioè, da un lato, e il ministro Grilli ha chiesto che le agenzie di rating non abbiano più un ruolo di vigilanza pubblica, ma che lavorino tra privati. È giusto la sfera privata, no, è sbagliato, cioè è giusto che diano consigli a chi le paga, perché il voto viene dato a chi ti paga, ma basta con questo ruolo nella supervisione pubblica. Ebbene, teniamo assieme due elementi, perché da un lato abbiamo ancora da affrontare il problema di chi, lo dico in maniera molto tranquilla, come l'agenzia di rating ha dato voti di tripla A in questi prima che scoppiasse la crisi, a titoli che poi nell'80% dei casi si sono rivelati titoli spazzatura. Questa è l'inchiesta del Senato americano, non è l'inchiesta di Focus Economia, e quindi qualcuno deve pagare anche lì, perché la situazione in cui siamo nasce anche da una gestione scriteriata, priva del senso del rischio, della prudenza, di cui le agenzie di rating, stando alle accuse che arrivano da Sydney, da Washington e anche dall'Italia, sono state parte, un sistema di cui erano parte. Di questo parleremo subito. Nella seconda ora del programma invece parleremo di quello che sta avvenendo, perché è chiaro che i paesi con debiti alti devono ridurre la spesa pubblica, i costi, gli sprechi, i costi della politica e quant'altro, e l'Italia non può viaggiare con un debito così alto. Però è anche chiaro che il nostro paese è un paese, per esempio, che avrà un deficit vicino al pareggio, sarà vicino al pareggio di bilancio nel 2013 o 2014, che l'America viaggia con deficit molto più alti rispetto all'Italia perché ha fatto, e a molta parte d'Europa perché ha fatto, politiche più accomodanti. Insomma, la domanda è: ma è solo l'Europa che deve essere la prima della classe perché così vuole la Germania, Bruxelles, i mercati finanziari, e gli altri paesi possono invece, nel caso specifico gli Stati Uniti, continuare a fare politiche che creino meno tensioni sociali? C'è il rischio di trasformare l'Europa, o perlomeno parte dell'Europa continentale, in una Grecia, a mio avviso il rischio c'è, e quindi va bene l'austerity, va bene i tagli, va bene tagliare soprattutto le inefficienze, gli sprechi della pubblica amministrazione, però attenzione, attenzione, qui non si vedrà una ripresa fino a metà del 2013, a essere buoni, il che vuol dire che poi sul fronte occupazionale non si vedrà nulla fino a fine del 2013, inizio 2014. Lo reggiamo un anno così? Questa è la domanda. 349-238-6666 per i vostri SMS. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo anche dalla borsa, perché oggi le borse sono tutte deboli. Parigi meno 0,80 come Francoforte, Londra perde un punto percentuale, Milano meno 0,60, da noi va bene solo A2A più 4,30%, Enel più 1,70, Steam Electronics più 1,20, Terna più 1,1, Telecom più 1% come Snam. Male il Monte dei Paschi, la trimestrale. Parleremo anche dei bilanci delle banche e che, come ha scritto oggi Sole 24 Ore, sembrano in salute, in realtà le banche stanno guadagnando in questo periodo soprattutto dagli investimenti in titoli di Stato. Monte dei Paschi oggi è uscito con una trimestrale che non è piaciuta affatto, meno 5%, Popolare di Milano meno 3,40, il numero uno del Monte dei Paschi, Viola, ha detto che praticamente i tagli previsti in 3 anni andrebbero fatti in 1 anno. Popolare di Milano, dicevo, meno 3,20, come la Popolare Emilia Romagna. Il 3% lo perde Mediaset, il 2,80 il Banco Popolare e Saipem, il 2,60 Ubibanca e Campari, ma anche Fiat, Pirelli meno 2,30, Unicredit meno 2% come Parmalat, l'1,90 lo perde Tod's, l'1,70 il calo di Mediobanca e anche di Intesa San Paolo. E venendo poi al tema di cui torneremo a parlare anche alle 18 e quindi lo sciopero e la protesta oggi in tutta Europa, Angela Merkel ha detto: il diritto allo sciopero è un grande diritto delle democrazie, ma ciò che è necessario va fatto lo stesso. E questa è la risposta a chi chiedeva se le proteste oggi coordinate in diverse città europee ammorbidiranno le politiche del rigore. Io vi ripeto quello che diciamo da 1 anno e mezzo: la Germania non ammorbidirà le politiche di rigore finché non pagherà anche lei qualcosa, tutto il mondo è paese. La Germania in questo momento, fino a qualche mese fa, ha avuto un grosso vantaggio perché risultava in una classe di studenti ripetenti, pur essendo, risultava lo studente più bravo, e quindi ha visto tantissimi vantaggi della situazione che si è creata, per esempio tasse di interesse sotto lo zero, cioè più facile indebitarsi, conviene indebitarsi in Germania, con una concorrenza interna in Europa pazzesca, perché a un imprenditore tedesco costa circa 3 punti percentuali in meno chiedere 1 milione di euro di finanziamento su 5 anni rispetto a quanto non costa un imprenditore italiano. Ha comunque un euro relativamente debole rispetto a quello che era il marco e quindi ha avuto grossi vantaggi nell'esportare. Ebbene, o si dividono anche i vantaggi, cioè si chiedono i sacrifici ma si tiene la classe unita, o se no non si va avanti. La Germania, secondo me, finché non inizierà a vedere qualche segno meno nella produzione industriale, nel suo export, non capirà, perché a mio avviso non è, diciamo, così flessibile la mentalità, non capirà che se affonda il resto dell'Europa affonderà anche la Germania, che bisogna ammorbidire, non dico l'americana ma quasi, queste politiche del rigore che stanno avvitando la crisi. Anche qui non siamo noi a dirlo, oggi la Grecia ha diffuso il dato sul PIL nel terzo trimestre. Sapete cosa ha fatto la Grecia nel terzo trimestre dell'anno? Meno 7,2%, cioè i tagli che giustamente vanno fatti in Grecia, il paese era fuori da ogni controllo nei bilanci, però stanno producendo in Grecia un peggioramento anno su anno della recessione economica, non un miglioramento. È 5 anni a questo punto che la Grecia è in recessione, meno 7%, ha perso il 30% del PIL in 5 anni. E intanto, se la Grecia fa meno 7%, la Germania è riuscita a collocare dei BTP, dei Bund, a 2 anni a tasso negativo, cioè si preferisce perdere soldi pur di prestare soldi allo Stato tedesco, si preferisce averne indietro di meno. Questo vuol dire tasso di interesse negativo, meno 0,02%, in ulteriore discesa rispetto al più 0,07 dell'asta di ottobre, che vuol dire che gli investitori incasseranno meno di quanto hanno prestato fra due anni, però lo fanno perché dicono almeno la Germania è un posto sicuro. È possibile avere una concorrenza entrando di questo tipo? Cioè paesi che hanno devono offrire il 6-7% o il 5% e paesi che addirittura hanno un vantaggio, gli vengono regalati un po' di soldi pur di finanziare il loro debito? Anche noi abbiamo fatto un collocamento oggi di BTP a tre anni, i rendimenti per fortuna sono risultati in calo al 2,64% dal 2,80 di ottobre, quindi abbiamo dovuto offrire un po' di meno per farci finanziare il nostro debito. L'asta valeva sostanzialmente 3 miliardi e mezzo di BTP con scadenza a luglio 2015. E per quello che riguarda invece la polemica sugli esuberi nella pubblica amministrazione, 4.000 esuberi annunciati ieri dal ministro Patrone Griffi, oggi il leader della CGIL, Susanna Camusso, dopo aver dato un giudizio molto tenero sul governo Monti, un anno di disastri e di non risposte, dice è inaudito che l'annuncio degli esuberi arrivi via Twitter, così infatti ha fatto ieri il ministro Patrone Griffi. Siamo di fronte a una cosa inaudita, mentre era in corso un confronto sindacale c'è un ministro che annuncia gli esuberi su Twitter e come abbiamo detto tante volte, invece di fare i conti da ragionieri dovrebbero ragionare sul fatto che continuare a licenziare persone rappresenta un costo maggiore per il paese, non un risparmio. E domani il primo ministro Monti sarà alla Bocconi per l'inaugurazione dell'anno accademico, speriamo non vi siano tensioni anche lì, però l'abbiamo detto ieri, attenzione, perché io capisco che il governo Monti ha dovuto in primo luogo ridarci credibilità in Europa, però poi il governo lo fa in Italia e quando ti devi muovere in Italia, allora anche lì andiamo a mettere i paletti, perché ho capito che il governo è tecnico e non politico, quindi non deve presentarsi alle elezioni. Però insomma nemmeno un Monti bis in un paese diciamo completamente bloccato dagli scioperi sarebbe immaginabile, perché a quel punto avrebbe ragione la politica e direbbe almeno noi controlliamo dovremmo avere un rapporto con il corpo elettorale. No, lo dico a chi si illude di fare il governo del presidente con un Monti bis di fatto commissariando di nuovo il paese in questo modo, perché quando le tensioni aumentano è meglio avere i sindacati e la politica che hanno preso sul territorio che non i governi tecnici. E chi ha vissuto in questo paese negli anni 70-80 se lo ricorda. Comunque questo è l'altro tema della puntata, dicevo oggi ci occupiamo anche e soprattutto di agenzie di rating, chi ha diffuso voti, ricette ed è sembrato essere un po' un apprendista stregone. Ne parliamo delle agenzie di rating appunto perché, come ricordavamo, l'agenzia, una delle tre, sono Standard & Poor's, Moody's e Fitch, l'agenzia internazionale Fitch, dopo essere stata rinviata a giudizio dalla procura di Trani assieme a Standard & Poor's nell'ambito dell'inchiesta sulle condotte illecite delle agenzie di rating stesse, e dice la procura di Trani che per esempio il giudizio espresso dall'agenzia Standard & Poor's il 13 gennaio 2012 sul sistema bancario italiano, quello che poi portò a un ulteriore abbassamento del voto, declassamento del rating sul debito del paese, perché quel giudizio sul sistema bancario comportò poi un abbassamento del voto sul debito dell'Italia, era errato e soprattutto contrario alla situazione reale, nonostante fossero arrivate indicazioni a correggere quel giudizio. E lì c'è la polemica delle mail interne a Standard & Poor's in cui alcuni analisti non sarebbero stati d'accordo e avrebbero invitato l'agenzia a non declassare il debito delle banche italiane. Dicevo, rinviata a giudizio Standard & Poor's e Fitch oggi ha deciso di limitare tutte le sue attività in Italia. E poi ha aggiunto, verranno sospese tutte le teleconferenze, le conferenze e eventi simili in Italia, così come i colloqui con investitori o giornalisti. E questo arriva, diciamo, a distanza di una settimana dalla vicenda australiana, nel senso che in Australia il tribunale ha dato una sentenza storica. Standard & Poor's ha perso una class action, cioè quindi un'azione, una causa collettiva, ed è obbligata a pagare 13 comuni perché colpevole di aver assegnato in modo fuorviante e ingannevole un giudizio di tripla A, cioè di massima affidabilità, su titoli derivati, quindi altamente rischiosi, che poi si sono rivelati tossici. Professor Marco Nado, docente di economia degli intermediari finanziari all'Università Bocconi di Milano, nonché editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, lei proprio ieri sul Sole 24 Ore scriveva: è difficile immaginare che vi sia un complotto che va da Trani a Sydney, l'asse Trani-Sydney. Ma quello che sta capitando è che, alla luce poi del disastro finanziario che l'investimento in titoli definiti affidabili, perché quando un'agenzia di rating dà la tripla A vuol dire che dà la massima affidabilità, poi questi titoli sono saltati per aria in molti casi perché erano derivati tossici, beh, insomma, i tribunali si stanno muovendo. Un primo commento, poi veniamo invece alla sua valutazione su questa presa di posizione di Fitch. Sembra quasi dire: bene, voi ci rinviate a giudizio, noi lavoreremo meno in Italia e non faremo conferenze né spiegheremo ai giornalisti perché dei nostri voti. È una ripicca? Ma questo bisogna chiederlo a Fitch, francamente. Io non so esattamente. Apprendo adesso di questa posizione. Le agenzie di rating hanno delle procedure molto precise, o dovrebbero avere delle procedure molto precise per quanto riguarda la comunicazione, come succede per le imprese quando devono comunicare qualcosa al mercato, ma non si tratta di fatti che possono avere effetti sui prezzi, sulle aspettative degli investitori, devono seguire delle procedure precise, quindi credo che non possono evitare di attenersi a queste procedure. Cioè, quindi lei dice ci sono delle procedure che devono seguire, sarebbe singolare che le sospendessero anche nella comunicazione. Però oggi, poco fa, un'ora fa, il ministro Vittorio Grilli, in un'audizione al Senato, ha detto: negli anni abbiamo inserito nel nostro sistema di sorveglianza pubblica, la vigilanza pubblica sulle banche, anche il voto delle agenzie di rating. Occorre che il nostro giudizio, la sorveglianza sulle banche, sia indipendente da quello che è il voto delle agenzie di rating. E ha aggiunto: le agenzie di rating hanno una funzione giusta finché restano nella sfera privata, cioè finché giudicano chi le paga per essere giudicato, per ricevere un voto. Non va bene se entrano nel sistema di supervisione pubblica. Mi sembra una presa di posizione anche questa molto significativa rispetto un po' alla sudditanza intellettuale e psicologica di qualche anno fa, professor Nado. Sì, va detto che nella sfera del pubblico le agenzie sono state chiamate alla gran parte della regolamentazione, perché la prima svolta è stata a Basilea, naturalmente, che ha dato tanto spazio al voto delle agenzie di rating, che ha cambiato totalmente lo schema troppo semplificato di Basilea 1. Quindi lei dice: siamo stati noi con Basilea 2 a dare anche tutto questo ruolo all'agenzia di rating, perché poi il loro voto diventa fondamentale per capire quella che è la stabilità, anche come concedere credito a un privato e poi invece la stabilità di una banca. Ma lei è d'accordo con una riduzione del loro ruolo visto quello che è successo nel 2008? Le grandi polemiche sono state negli ultimi 10 anni, non soltanto dopo la crisi, sulle agenzie di rating hanno portato a individuare 3 strade. Una è una supervisione sulle agenzie di rating da parte dei regolatori. In Europa abbiamo l'ESMA, che ha una competenza unica. È l'unico caso in cui un aspetto del mercato finanziario è regolato solo a livello europeo. Poi c'è il depotenziamento del rating, appunto, cioè la riduzione del riferimento al rating in tutti gli aspetti della regolamentazione, e il terzo è la responsabilità civile, prima ancora che penale, delle agenzie di rating quando sbagliano. Dove quando sbagliano non vuol dire che le cose vanno diversamente da quando pensate, qui non si tratta di fare la schedina il lunedì. Qui si tratta, per esempio, nel caso che ha citato lei, dei titoli strutturati, una corposa indagine fatta dal Senato americano ha accertato delle precise responsabilità di cose che le agenzie di rating avrebbero dovuto fare, non hanno fatto. Con il risultato che l'80% dei titoli che erano stati classificati AAA sono finiti nel bidone della spazzatura, perché sono arrivati allo status di junk bond. Ecco, questo, allora, lei ha ragione nel dire, nessuno vuole accusare le agenzie di rating di non avere fatto gli oracoli, non sono oracoli. Però un conto è dire tu dai un giudizio sulla base degli elementi che hai, fu famosa la vicenda Parmalat, Standard & Poor's disse beh, se loro falsificavano i bilanci noi non potevamo saperlo. Però altra cosa è quando sistematicamente, e mi riferisco al 2007-2006, tu collochi, e 2008, prodotti derivati, strutturati, che derivano da qualcosa, che amplificano i guadagni ma anche le perdite, ad altissimo rischio, nell'80% dei casi di questi prodotti che avevano la AAA, questi prodotti diventano spazzatura, cioè fanno saltare per aria il sistema. Questo, lei citava l'indagine del Senato americano, che ha pubblicato questa indagine nell'aprile 2011 e afferma testualmente che le agenzie di rating hanno attribuito in modo inaccurato il giudizio AAA ai titoli strutturati, introducendo in questo modo un elemento di rischio nel sistema finanziario americano, costituendo una causa fondamentale della crisi finanziaria. Lo dice il Senato americano, non lo diciamo noi. E cioè, aver detto che questi prodotti, che erano ad alto rischio, erano molto affidabili, li ha sostanzialmente fatti come una medicina, che si dice, beh, la possono prendere tutti, non c'è bisogno di ricetta medica. Voglio dire, se poi si scopre che ha degli effetti altamente rischiosi o delle possibilità di effetti altamente rischiosi, è chiaro che la responsabilità di chi dice non c'è bisogno di prescrizione e la medicina va bene per tutti, è una medicina tranquilla, è una responsabilità altissima. L'80% delle AAA che hanno beccato i derivati si è rivelata una panzana, sono saltati per aria. Domanda, uno può dire, beh, lo facevano in buona fede. E qui c'è il problema grosso, perché il rapporto tra chi dà il voto e chi lo riceve è un rapporto in conflitto di interessi, nel senso che l'agenzia di rating viene pagata da chi chiede il suo giudizio. No? È come se diciamo, lo studente pagasse l'insegnante, professor Onado. Chiaramente non oso pensare cosa capiterebbe in università se lei dovesse dare un voto a uno studente che le paga una commissione su questo voto. Il paragone non è proprio del tutto calzante, ma rende, diciamo che rende l'idea. E allora, dopo il meteo, professor Nado, le faccio ascoltare che cosa è successo agli utili, ai guadagni delle agenzie di rating tra il 2002 e il 2007, per vedere se tutti questi voti dati sempre AAA di massima affidabilità hanno fatto guadagnare o no le agenzie che davano questi voti. ...17:38, chiudiamo questo primo approfondimento sulle agenzie di rating dopo il giudizio molto duro del ministro Grilli, che ha detto dovrebbero occuparsi solo di giudizio tra privati, di chi li paga, non avere questo ruolo anche sulla supervisione bancaria, dopo il rinvio a giudizio della procura di Trani di Standard & Poor's e Fitch, dopo che Fitch ha detto oggi, beh, a questo punto limiteremo le nostre attività in Italia e limiteremo anche le conference call, non comunicheremo più con i giornalisti. C'è già chi scrive, vabbè, ce ne faremo una ragione. Mi sembra che oggi i problemi siano anche altri. Dicevamo però col professor Onado, per capire se questa cosa è stata fatta in buona fede o in cattiva fede, un metodo potrebbe anche essere vedere se tutti questi voti molto alti, questa è l'accusa data a Sydney, che ha condannato Standard & Poor's, e a Trani, che ha rinviato giudizio Standard & Poor's e Fitch, questi giudizi di affidabilità su prodotti tossici, questo dire la medicina non fa male, non ha effetti collaterali, quando ne ha avuti di pesantissimi e ci ha portato in questa crisi, la più grossa da 50 anni, ebbene, se uno lo fa in totale buona fede, di solito non ci guadagna. Allora cerchiamo di capire se in quegli anni, dal 2002 al 2007, le agenzie di rating, mentre davano giudizi che sui derivati nell'80% dei casi si sono rivelati falsi, cioè sono saltati per aria questi titoli, erano tossici, se ci hanno guadagnato oppure no. E qui torna un nostro classicone, il film è Inside Job, l'autore è Charles Ferguson, ha vinto l'Oscar nel 2011 come miglior documentario, il passaggio sulle agenzie di rating. Le tre agenzie di rating, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, guadagnarono miliardi dando il massimo dei voti a titoli rischiosi. Moody's, la più grande agenzia di rating, quadruplicò i suoi profitti tra il 2002 e il 2007. La Moody's e la Standard & Poor's venivano ricompensate sulle basi dei rating che davano, e più AAA davano, più alti erano i guadagni per la società. Immaginate di andare al New York Times e di dire: se mi scrivete un articolo positivo vi pago $500,000, se non lo fate non vi do niente. Le agenzie di rating avrebbero potuto interrompere la festa e dire: ci dispiace, dovremmo alzare i nostri standard, e tagliare immediatamente il flusso di finanziamenti verso mutuatari rischiosi. Gli strumenti valutati con la AAA passarono da una manciata a migliaia e migliaia. Centinaia di miliardi di dollari venivano valutati... Ogni anno? Ogni anno, sì. Ho testimoniato di fronte al Congresso e alla Camera dei rappresentanti sul problema delle agenzie di rating. Ed entrambe le volte i loro avvocati hanno tirato in ballo il primo emendamento, rivendicando il fatto che il loro giudizio di AAA era solo la loro opinione e che le persone non dovevano basarsi solo su di essa. I rating esprimono un'opinione. I nostri rating sono la nostra opinione. Opinioni. Opinioni non sono altro che opinioni. Credo che abbiamo enfatizzato il fatto che i nostri rating sono opinioni. Saranno anche opinioni, ma opinioni pagate a peso d'oro. Moody's quadruplica i profitti dal 2002 al 2007, e non mi si può dire, professor Onado, che insomma, sa come dicono in francese, le demi vierges, le mezze vergini non esistono, no? Quindi, ecco, allora tu quadruplichi i profitti in 5 anni in cui si crea, guarda caso, la bolla più pesante degli ultimi 50 anni di strumenti derivati. È chiaro che non l'hanno creati loro questi strumenti, ma il loro giudizio era un giudizio fondamentale per farli passare come strumenti affidabili. Esattamente, perché il loro richiamo continuo al fatto che si tratta di opinioni, dipende dal fatto che poi loro giuridicamente si appellavano ai diritti costituzionali, e quindi in base alla libertà di opinione e di stampa chiedevano la non responsabilità del civile, naturalmente, soprattutto. E le corti americane e le corti anglosassone per lungo tempo hanno dato loro ragione, e adesso le cose stanno cambiando, anche perché un oscuro giudice americano a un certo punto ha detto: il giornale pubblica informazioni e anche giudizi e opinioni sulle emissioni obbligazionarie, ma su tutte le emissioni obbligazionarie che ritiene interessanti per il lettore, mentre le agenzie di rating pubblicano solo le opinioni pagate dagli emittenti, e qui c'è una bella differenza. Cioè, noi con tutti i difetti che possiamo avere non pubblichiamo solo le notizie che ci vengono pagate, diciamo, ma quelle che riteniamo essere notizie importanti per il lettore, no? E quindi il lettore compra il giornale al di là di quelle delle notizie che trova, e altrimenti dovremmo pubblicare solo le notizie di alcuni inserzionisti, e si creerebbe un conflitto di interessi tremendo, che è il tallone di Achille delle agenzie di rating. Non è una caccia alle streghe, però è inutile girarci attorno finché vi sarà questo rapporto tra utili, guadagno e giudizio, ed è inequivocabile. Non ne usciamo. Tra l'altro, io sono d'accordo con il ministro Grilli in questo caso: finché giudicano i privati, il privato la paga, si becca il giudizio, vabbè, ma quando, ed è colpa anche nostra, del legislatore europeo, diamo il potere alle agenzie di rating di determinare Poi sostanzialmente l'andamento economico di uno Stato e delle sue banche e dei suoi titoli di Stato, beh, allora lì bisogna vederci molto molto molto molto chiaro. Grazie, e l'idea che lei diceva di una supervisione che ha solo l'Europa è una delle tre soluzioni che proponeva Marco Nado, l'altro è il depotenziamento e infine la responsabilità civile e penale. Attenzione, i giornalisti, se scrivono una cosa inesatta, è dibattito di questi giorni, hanno una responsabilità civile e anche penale, e l'avranno anche le agenzie di rating se si scopre che l'80% delle AAA che hai dato erano per titoli spazzatura e hai ingannato in questo modo, o hai contribuito a ingannare in questo modo i risparmiatori e anche l'intero sistema. Grazie al professor Marco Onado in collegamento con noi. Grazie, buonasera. Sì, c'è chi dice che senso ha il penale, così ci emarginiamo, i giudizi diventeranno più riservati, più pericolosi. Ho capito, allora andiamo nel civile, ma insomma non è possibile che qui ci sia qualcuno che paga, e lo dico con massimo rispetto, sempre, e cioè i cittadini dei paesi che adesso, o dei comuni che adesso, e poi ne parleremo, vedono la recessione e la cinghia tirarsi sempre di più, e le agenzie di rating, pur con tutti gli errori fatti, vengono a raccontarci, ma erano opinioni, opinioni che ti hanno fatto quadruplicare gli utili. Meno 0,50% la borsa in chiusura Milano, meno 0,90 Parigi, meno 0,90 anche Francoforte, meno 0,70 Londra, l'America perde lo 0,40, giornata debole oggi, nulla di drammatico, molto bene A2A più 4%, Enel più 2,20 e Steam Microelectronics più 1,5%, Eterna più 1,30 come Snam, pesante il calo sul Monte dei Paschi, meno 5%, dopo la trimestrale Popolare di Milano meno 3,40, Popolare Emilia Romagna meno 3%, e anche il Banco Popolare perde il 2,80%, Mediaset perde il 2,90% come Saipem. Dicevamo della borsa, e quindi poi parleremo anche dei bilanci delle banche italiane. Oggi c'è su Sole 24 Ore una bella analisi su come, anche quando fanno utile, vengano realizzati questi utili. Si parla soprattutto di Unicredit e Intesa San Paolo. Comunque la borsa. Ciao Condina, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Monte dei Paschi, partiamo subito con la trimestrale. Rosso da 47 milioni e mezzo di euro nel trimestre, e il numero uno Viola che dice: a questo punto dobbiamo accelerare il piano di risanamento, verranno chiuse 400 in un solo anno, se ho ben capito, filiali. Però chiedo a te maggiori lumi. Eh sì, per Monte dei Paschi è stata una seduta davvero difficile, ha perso oltre il 5%, è stato il peggior titolo del FTSE MIB, alla luce, come dicevi, di una trimestrale che è stata deludente anche per il mercato, visto che il consensus stimava addirittura un utile di 70 milioni appunto per il terzo trimestre, invece si è chiuso con una perdita di 47 milioni. Se poi guardiamo i primi 9 mesi, il rosso è di 1,66 miliardi, su cui certo pesano 1,5 miliardi di svalutazioni, ma comunque resta l'impressione di una banca il cui business e la cui operatività sia tutta da rilanciare. I conti, è periodo di trimestrali, di conti del trimestre, conti anche per Mediaset e per Pirelli. Eh sì, Mediaset, come sappiamo tutti, ha segnato il suo primo trimestre in rosso della storia, un trimestre che ha segnato appunto 88,4 milioni di utile, che ha portato in rosso anche il dato dei 9 mesi, meno 45 milioni, Mediaset che già veniva da un ribasso consistente e che, su cui anche oggi si sono insomma accumulate le vendite degli operatori. Per quanto riguarda Pirelli, meno 2,3%, già ieri aveva perso molto dopo i conti dei 9 mesi, il taglio dei target sul 2012 per quanto riguarda i ricavi. Ricordiamo comunque il titolo Pirelli è un titolo che viene da un rally molto corposo durante quest'anno, è un'azienda che ha recuperato molta redditività, ma comunque in questi 2 giorni sul titolo si sono concentrati i realizzi degli operatori. Sì, non è un periodo facile per i gruppi editoriali, lo dico con massimo rispetto, sia per il Sole 24 Ore, il gruppo Rizzoli, Corriere della Sera, Media, insomma la pubblicità non va bene, poi ci sono sicuramente altri problemi e ognuno ha i suoi. Ma andiamo avanti. A2A invece, ieri abbiamo avuto ospite il numero uno Tarantini, non è per questo che il titolo sale, magari dico fossimo così in grado di muovere i titoli, più 4% A2A, in realtà qui si avvantaggia di Enel, più 2,20% oggi Enel. Eh sì, A2A un po' è stato un po' sull'otto volante dopo la presentazione del nuovo piano industriale e dei conti di giovedì. Giovedì il mercato aveva reagito con entusiasmo, più 5%, poi sul titolo sono arrivati consistenti realizzi. Oggi A2A riguadagna più 4% anche sull'onda di Enel, che ieri ha presentato una trimestrale sopra le attese. Enel, ricordiamo, è il primo produttore energetico italiano, A2A dopo l'acquisizione di Power è il secondo. Su entrambi grava il fatto di aver accumulato una capacità produttiva che al momento è superiore a quelle che sono le reali esigenze del paese, in cui la domanda di energia è calata a causa della crisi, quindi dei margini in difficoltà. Enel però ha battuto le stime, quindi anche A2A è corsa in scia appunto al primo operatore nazionale. Ancora tra i titoli citiamo ST Microelectronics, che ha fatto un più 1,5%. Qui c'è Infineon, giusto? Sì, qui c'è Infineon, che non è che abbia fatto dati particolarmente brillanti, però ha anche annunciato un robusto piano di contenimento dei costi. E quindi, siccome infine non è balzato sulla borsa tedesca, guadagnava quasi il 7%, anche ST si è mossa di conseguenza. E poi le utilities, cioè chi fornisce servizi, e mi riferisco a sostanzialmente Terna, da un lato, se eccola qua, più 1,32%, e Snam Rete Gas, più 1,30%. Anche loro si muovono, diciamo, in scia comunque ad Enel, sì. Appartengono allo stesso settore, è comunque una giornata favorevole per le utility, comunque sono titoli, ricordiamo, che garantiscono anche ottimi dividendi. Bene anche Salvatore Ferragamo, più 1% come Telecom Italia. Qui Sawiris continua a tenere banco, mi sembra meno di due giorni fa, ma insomma. Vabbè, ieri il titolo aveva ripiegato dopo il balzo di due giorni fa, comunque è chiaro che da qui al Consiglio di amministrazione fissato inizio dicembre, quando dovrebbe un po' chiarirsi la questione di Sawiris, il titolo Telecom Italia sarà sicuramente sotto riflettore. Ancora Ansaldo più 0,88, Exor più 0,80, fronte opposto, e allora di Saipem abbiamo già detto meno 2,80%, Campari continua a pesare la trimestrale di ieri, meno 2,60%, Fiat meno 2,5%, Ubibanca meno 2,38%, di Pirelli abbiamo detto Unicredit perde il 2,20%, Parmalat il 2% come Tozze, Intesa San Paolo l'1,70%, Mediobanca meno 1,6%, Buzzi Unice meno 1,5%. I migliori e peggiori in assoluto, Sintesi più 26%, Arena più 22%, Elica più 8,30%, i peggiori, Seat Pagine Gialle meno 7,35%, cioè qui ormai il titolo è a 6 centesimi di euro, no? Sì, qui la situazione, insomma, il salvataggio c'era stato, è chiaro che adesso bastano piccoli movimenti, perché data appunto muovere proprio anche con performance evidenti, poi peraltro qui sono le risparmio. Certo. No, dico, uno capisce che sta diventando vecchio, perché io mi ricordo ancora quando facevamo, forse ero però Salvadanaio e anche forse Focus, le puntate con Seat che valeva 7 euro per azione, 7 euro e mezzo, cose del genere. Forse anche 10 anni fa. E quindi ti ringrazio per avermelo ricordato. Grazie a Ceo Conni, la Radio Colli Sole 24 Ore, Prelios meno 6,77%. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo anche all'altro tema, e cioè quanto può reggere l'Europa continentale, l'area euro, una crisi che sta producendo, per via anche dei piani di austerità, tensioni, conflitti sociali, oggi le manifestazioni in tutta Europa. E anche ricordando un dato che a mio avviso si commenta da solo: la Grecia nel terzo trimestre dell'anno ha di nuovo fatto un meno 7,2% nel PIL, cioè tutta l'austerità che stiamo applicando alla Grecia continua a far precipitare il PIL greco. E nel frattempo la Germania invece oggi ha collocato BTP a due anni con rendimento negativo, cioè chi presta i soldi alla Germania otterrà fra due anni meno soldi indietro, però pur di metterli alla Germania si rinuncia anche a una parte del capitale, meno 0,02%. È chiaro che questa austerità in questo momento va a vantaggio di un solo paese o di un solo gruppo di paesi, ma le tensioni si stanno allargando a tutta Europa. Di questo parliamo tra un attimo. Restiamo invece sul tema dei BTP, o meglio dei titoli di Stato, perché il Sole 24 Ore oggi, nell'apertura delle pagine di Affari e Finanza, va a guardare quello che è il bilancio delle banche, e in particolar modo oggi Monte dei Paschi è uscito con una trimestrale molto pesante. Il titolo ha perso, il peggior titolo oggi tra quelle maggiore capitalizzazione, Monte dei Paschi ha perso il 5-14%, però in realtà le due principali banche italiane, mi riferisco a Unicredit, ha fatto 355 milioni di utile nel terzo trimestre, Intesa San Paolo 441. Ebbene, se si va a guardare dentro l'utile si scopre che questo utile in realtà è stato fatto in maniera, diciamo così, non tradizionale per una banca. È 349-238-6666 per i vostri SMS. Per esempio, il margine di interesse di Unicredit scende da 11 miliardi dei primi 9 mesi del 2011 e 600 milioni a 11 miliardi e 73 milioni. I ricavi da negoziazione salgono da 864 milioni a oltre 2 miliardi. Per Intesa San Paolo, anche lì, i ricavi da trading raddoppiano da 747 a 1 miliardo e mezzo, mentre aumentano le perdite sui crediti concessi. E cioè le banche sono in sofferenza, non riescono a rientrare su crediti che hanno concesso. Per Unicredit si è passati da 4 miliardi e mezzo a 5 miliardi e 1, per Intesa San Paolo da 2 miliardi e 2 a 3 miliardi e 2. Che cosa vuol dire questo in italiano? Vuol dire, e chiedo conferma però a Moria Longo del Sole 24 Ore, buonasera Moria. Buonasera a tutti. Vuol dire che le banche stanno guadagnando meno o per nulla dall'attività tradizionale, che dovrebbe essere raccogliere denaro e prestarlo, e i guadagni e gli utili, che pure ci sono, arrivano dall'attività di negoziazione e trading. Negoziazione di cosa? Perché la borsa non è che viaggi sui massimi, per dirla con una battuta, Moria. No, verosimilmente la negoziazione ha riguardato in gran parte i titoli di Stato italiani. Le banche hanno fatto quest'anno un gioco molto semplice, cioè hanno preso in prestito molti soldi, miliardi dalla Banca Centrale Europea al tasso dell'1%, poi è diventato 0,75%, e hanno investito questa liquidità, presa in prestito, liquidità che la BCE ha prestato per un arco di tempo triennale, quindi liquidità triennale, l'hanno investita in titoli di Stato italiani. Questo ha permesso che ovviamente avevano soprattutto nei momenti maggiori d'acquisti rendimenti molto più alti. Quindi se uno si indebita all'1% e compra un titolo che rende il 5%, il guadagno, diciamo, è praticamente matematico. Questo ha da un lato foraggiato il bilancio delle banche italiane, permettendo loro di compensare la perdite che stavano o minori utili che per esempio avevano dal margine di intermediazione, che è il tipico, è il core business delle banche, cioè, certo, dove solitamente loro dovrebbero guadagnare. Dall'altro però ha aumentato enormemente i titoli Stato nel loro portafoglio, titoli Stato italiani. Per esempio Banca Intesa ha aumentato i BTP nel proprio bilancio del 55% dal settembre 2011 a settembre 2010. E in generale Intesa l'ha aumentato il 40%, sì. Il 55% è il totale dei titoli di Stato in tutte le banche italiane. Un dato Banca d'Italia, da settembre 2011 a settembre 2012, l'aumento del 55% a 327 miliardi di euro. Quindi le banche italiane si sono riempite di titoli di Stato, dalle quali attualmente hanno avuto un guadagno, perché appunto, allora, lo spread è sceso e quindi per loro c'è stato un guadagno. Allora, nulla di male nel comprare titoli di Stato, però quello che lascia un po' così perplessi è che i soldi Mario Draghi, i 1.000 miliardi che Mario Draghi ha dato al sistema bancario, di cui l'Italia ne ha presi 170 sui 1.000 miliardi complessivi, sono stati dati a tassi bassissimi, tu ricordavi l'1%, poi è sceso allo 0,70%. Con l'idea di dire: facciamo respirare le banche, sennò qui andiamo verso il credit crunch e si blocca il sistema. E in questo modo le banche potranno anche poi girarli sull'economia, perché adesso di questo parleremo. In realtà quello che abbiamo scoperto è che per ora il gioco è stato molto semplice: prendi soldi in prestito dalla BCE all'1%, compri titoli che valgono 5, il 6, e la differenza è il tuo guadagno. È come se io andassi in banca e chiedessi soldi, la banca mi desse soldi all'1% e poi comprassi titoli di Stato con i soldi che ho in prestito dalla banca, e sapendo che ci guadagno il 4% di differenza. Così è capace anche mia nonna. Ma detto questo, io vorrei sapere, Moria, per concludere, poi se questo non crea un rischio sistemico, cioè riempirsi la pancia ai titoli di Stato, va bene. Però poi significa avere gruppi bancari che sono sensibilissimi a spread e quant'altro. Assolutamente sì, difatti questo crea una concentrazione del rischio. Diciamo che quello che sta avvenendo in questi anni è l'esatto opposto di quello che è avvenuto negli anni passati, prima della crisi. Ai tempi c'era una globalizzazione, quindi anche il nostro debito pubblico veniva comprato in tutto il mondo. Adesso c'è una deglobalizzazione, le banche si stanno ricomprando i titoli di Stato del proprio paese. Questo non avviene solo in Italia, ma in tutta Europa, in tutto il mondo. E stanno tornando flussi italiani in Italia, tedeschi in Germania, spagnoli in Spagna. Questo sta riportando tutto in patria, in tutte le patrie. Questo crea da un lato una concentrazione di rischio, anche se diciamo che le banche italiane sarebbero ugualmente esposte sull'economia italiana, perché comunque finanziano comunque l'economia italiana. Però dovrebbe permettere loro di finanziare l'economia, perché se comprano titoli di Stato fanno scendere il rendimento dei BTP, a loro volta hanno degli utili in bilancio, il loro costo del finanziamento diventa più basso perché è legato a quello dei BTP, dovrebbero scaricare i benefici sulla... almeno quello, no? Cioè, ecco, questo dire... non è che non è proprio avvenuto, è avvenuto ma in minima parte. Per esempio, do soltanto un dato, il tasso di interesse sui mutui è calato dal 4,99 di dicembre 2011 al 4,81% di settembre, quindi un calo c'è stato, però diciamo frazionale. Sì, ha ragione chi dice, ma chi avrebbe comprato altrimenti i titoli di Stato italiani a gennaio? Ho capito, stiamo solo dicendo, hai fatto bene, siccome ci guadagni grazie a una cosa che nessuno di noi ha, e cioè Mario Draghi che ti dà il denaro all'1% di interesse o allo 0,75%, almeno, come diceva adesso Mario Longo, questi utili che tu fai, perché lo spread è calato, cerca di ridistribuirli sul territorio, concedi prestiti con una sana e prudente gestione, ma insomma se no non se ne esce, perché io sono contento per gli utili bancari, ma vorrei vedere anche che poi questa cosa si diffonda e diventi elemento in qualche modo di rilancio, parzialmente di rilancio per l'economia del paese. Moria? No, volevo soltanto aggiungere il fatto che una delle problematiche maggiori sono i crediti in sofferenza. Le banche stanno perdendo tantissimo, e tra l'altro le banche li stanno svalutando pochissimo, i crediti in sofferenza. C'era uno studio di tempo fa di Alex Partner, recente, stimava che se le banche oggi svalutassero i crediti cattivi, diciamo, nei loro bilanci come li svalutavano prima, avrebbero perdite per 23 miliardi di euro, insieme a quelli italiani. Quindi le banche hanno questo grosso, hanno perdite occulte, diciamo in un certo senso, comunque inespresse ancora sui bilanci, potenziali, chiamiamole così, e dall'alto vedono anche l'economia che peggiora, quindi hanno anche in un certo senso paura a finanziare l'economia. No, questo è verissimo, questo, nessuno sta dicendo che le sofferenze sono in aumento, si sta solo dicendo a un certo momento non si può tutto fermare dalla BCE alle banche, e qua si vede poco o nulla. Grazie Moria Longo. Dopo il traffico teniamo assieme banche, agenzie di rating e tensioni sociali che si sono verificate oggi in tutta Europa per la manifestazione unitaria dei sindacati europei contro l'austerity. Gli scontri, l'audio che avete sentito erano relativo agli scontri a Roma, a Milano, a Torino e a Pisa, scontri purtroppo in tutta Europa, manifestazioni in tutta Europa. Oggi infatti la Confederazione dei Sindacati aveva organizzato manifestazioni contro l'austerity in tutta Europa e vorrei dire una cosa molto banale, è un peccato che chiaramente poi le manifestazioni diventino scontri, ma vorrei unire quello che è successo ieri nel Sulcis nell'Inglesiente con due ministri obbligati a prendere l'elicottero per riuscire ad arrivare in aeroporto, tanto erano bloccate le strade dai minatori e dai dipendenti dell'Alcoa, con quello che è successo oggi in Europa, con Angela Merkel che dice mi dispiace per le proteste ma noi continueremo con le politiche del rigore, e con un ultimo dato che riguarda la Grecia e la Germania. La Grecia oggi ha avuto il dato sul terzo trimestre per il suo PIL -7,2%. La Germania oggi ha chiesto soldi agli investitori, ha emesso BTP a 2 anni e il rendimento è negativo, cioè si preferisce perdere soldi pur di prestarli alla Germania. Professor Giulio Sapelli, le ho cambiato la base, non sono più i Carmina Burana, oggi non mi sembrava aria, buonasera. Se lo dice lei, invece era proprio il giorno adatto. Dei Carmina Burana. Allora, teniamo assieme le due cose, le agenzie di rating che sono sotto accusa, vabbè, ne abbiamo parlato nella prima ora. C'è chi sta scrivendo Merkel uguale Maria Antonietta, io non lo so. Però insomma, qui il dato è cioè la Grecia entra nel suo quinto anno di recessione totale, -7,2%, non si capisce come farà a uscirne. La Germania continua a raccogliere denaro con interesse negativo. Allora, questa austerity... Ma perché la stupisce questo, scusi? No. Lei pensa che i mercati allochino razionalmente i beni? Questa è la prova che gli investitori non sono investitori razionali. Non mi sembra talmente evidente, no? Voglio dire, c'è questa idea assurda che la Germania sia al riparo da qualsiasi soffio di vento, nonostante la politica non soltanto dannosa per gli altri, ma dannosa per se stessa, per la sua economia, che sta conducendo che la gente, come ha detto giustamente lei, preferisce allocare i suoi risparmi, i suoi investimenti, le sue speculazioni in un paese che è sull'orlo di una crisi profondissima. Tra un po' ritornerà a essere malata come era malata all'inizio del 2000. A me mi sembra talmente elementare, Watson, che chiunque ragiona non col pensiero unico dominante, questa cosa la capisce. E qual è il pensiero unico dominante? Il pensiero unico dominante è che i mercati sono razionali e tendono sempre all'equilibrio, cosa che voglio dire, ormai anche se chi si è dimenticato della crisi del 29, da una decina d'anni dovremmo smettere, perché se no non avremmo le crisi, no? Saremmo ritornati tutti già in equilibrio, tutto crescerebbe. 2, che le politiche di austerità sono politiche suicide. 3, che il vero problema non è il debito pubblico, ma è la differenza tra le bilance commerciali tra paesi come la Germania, che hanno un surplus, e paesi come noi altri che il surplus non ce l'abbiamo, e quindi paghiamo un differenziale spaventoso dal punto di vista della crescita, e quindi siamo uniti dalla camicia di forza dell'unità monetaria e non riusciamo a far muovere i fattori come potremmo farli muovere se avessimo delle diverse monete. Questo non vuol dire che bisogna uscire dall'euro, no, vuol dire che bisogna immettere liquidità, finirla con la politica dell'austerità per fare in modo che si supplisca agli sbilanciamenti delle politiche commerciali che dividono paesi creditori e paesi debitori, e che quindi la si smetta con l'egemonia tedesca e con questa signora che va a fare delle visite turistiche in Germania e in Portogallo, che mi ricordano molto quelle che faceva un altro signore coi baffi in un periodo terribile, quando la Germania era convinta di fare un blitzkrieg. Il blitzkrieg non è riuscito, voglio dire, quindi siamo in una crisi terribile e gli investitori sbagliano tantissimo a mettere i soldi lì. E mi sembra elementare, Watson, basta ragionare con la propria testa e non con la testa di Grilli, questo mi pare evidente. Di Grilli o di Grillo, non ho capito. Di Grilli. No, perché se non mettiamola in politica, mettiamola in coloro che non sono tecnicamente adeguati ad affrontare. Allora, il suo giudizio verso il governo Monti ormai è noto, lei ha scritto anche un libro, L'inverno di Monti e il bisogno della... della politica. Adesso arriva la gelata, adesso arriva la gelata e vedrai, poi arriverà il fango. Sapelli, lei mi vuole ammazzare gli ascoltatori poco prima ma del... No, ma gli ascoltatori, se cosa vuoi che gli importi? Senta una cosa, ma secondo lei a questo punto... Perché il governo, perché qua si ragiona anche molto di un Monte bis, cioè secondo lei l'austerità perché non va bene? Perché io mi faccio difendere la Germania, un secondo, mi faccio difendere la Germania. C'è chi dice la Germania adesso vive in queste condizioni positive perché ha fatto ordine in casa a fine anni 90 e quindi l'austerità è propedeutica poi alla crescita sana. Ma non è affatto vero. Queste persone, oltre a non conoscere l'economia, perché chi conosce l'economia neoclassica non conosce l'economia, perché sono quattro libicini che chiunque impara, ma invece l'economia classica richiede... Glielo deve dire a Giannino, mio amico Oscar, perché... Ma Oscar almeno si ispira ai classici austriaci, Oscar è una persona colta, ecco, fa eccezione, anche se abbiamo delle idee diverse, però Oscar è un uomo di buona lettura e non a caso non fa parte del governo dei tecnici, no? Ecco, mi pare anche qui elementare... Per ora ancora no, diciamo. Ma non lo farà mai, scusa, anche con quei vestiti, figurati se lo mettono lì, guarda come è vestito Monti. Scusa, cosa mi stava dicendo? No, io vorrei capire, ma si dice l'austerità è propedeutica a una crescita sana. Ma no, ma quella roba lì che... Ma scusi, invece è proprio quelle robe lì che hanno fatto nel periodo Schröder che cominciano a minare, perché hanno creato due mercati del lavoro e hanno ristretto il mercato interno, perché a fianco di due terzi di lavoratori che prendono dai 2.500 ai 3.000 euro ce ne sono altri che prendono 800-700 euro. Questo sta creando già una frammentazione e una divisione del mercato del lavoro che la stanno già pagando con restringimento. No, il problema vero è che la Germania ha fatto quel boom perché ha fatto una colossale mole di investimenti. È l'investimento che fa il lavoro, non la liberalizzazione come pensava anche Schröder. La Germania era una malata, ma era meno malata di altri. Capitali sono andati lì, ma non capitali finanziari, capitali industriali. Guardi le riforme nella fabbricazione che ha fatto la BMW, che ha fatto la Volkswagen. Quali sono gli investimenti? Ha aumentato la produttività del lavoro. Ma non scherziamo, ragazzi. Ma non scherziamo, ma queste sono favole. Certo che se le ripetiamo tutti. Allora, adesso... Mi scusi, Sapelli, quindi dopo l'austerity c'è ancora austerity? Ma se dopo l'austerity c'è austerity, c'è la depressione, il crollo, la disgregazione sociale. Ma quello che sta capitando in Sardegna, a Napoli, non è che l'inizio della disgregazione sociale, perché quando la gente non ha più i soldi per pagare il mutuo, quando le famiglie anziane non hanno più i soldi per pagare i figli giovani sposati che devono vendere la casa e la banca non glielo compra ma gli toglie anche il mutuo, amico mio, l'unica cosa è l'immissione di liquidità, che non è assistenzialismo, è politica per un investimento sociale. Così aumentiamo i debiti. Ma chi se ne trafotte? Ma scusi, ripeto sempre, il Giappone c'ha il 280% di debito. Ma cosa vuol dire? E va bene. La Spagna era a posto, è andata in default. Ma non mi dirà mica che gli investitori non investono in Italia perché c'è il debito pubblico? Poi, in ogni caso, io capisco che ci può essere una differenziale di share. Allora bisogna fare una politica europea neo-keynesiana. Cioè, debito pubblico europeo, gli euro bond in qualche modo. Ma così, la proposta di Prodi degli euro bond, fatto con Quadrio Curzio, una proposta elaborata, seria, che se l'avessimo fatta, probabilmente non avremmo avuto questa terribile crisi sociale. Sono passati anni e gli euro bond sono stati eliminati, cassati. Non li vuole la Germania. Il rischio di creare un fondo che prendeva il 60% di debito. Guardate che noi italiani siamo gente intelligente, abbiamo fatto delle gran belle proposte. Quelli sono ferri, questi sono fondamentalisti. Allora io la saluto, la ringrazio e non sa quanto, perché le mie idee sono abbastanza conosciute su questo punto. Per ora quello che noi vediamo è che tutta questa austerity e basta, solo austerity, sta portando a un aumento della recessione, delle tensioni sociali. Grazie Giulio Sapelli, da Sebastiano Berisoni l'augurio di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.